peanuts, all peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts. Jazz on megahertz. Salt peanuts, salt peanuts. Salt peanuts, salt peanuts. Alla console, Sandro e Alfredo. Salve a tutti, sono Sandro Laroni da Salpinaz. Oggi parliamo di Wayne Shorter, un musicista che compie quest'anno 80 anni e che vede in questo momento una, come dire, un momento straordinario della sua vitalità, sia di produzione che appunto anche di memoria del passato. Escono contemporaneamente più o meno queste ultime settimane di quest'anno già, un lavoro di inedito, una serie di bootleg raccolte dalla Columbia per una tournée europea del 69 di Miles Davis, e poi finalmente ha visto la luce, dopo 8 anni, il suo ultimo lavoro, una registrazione fatta dal vivo nel 2011, raccolte nella tournée in Europa soprattutto. Cominciando da questo recupero di alcuni dei concerti, della registrazione di alcuni concerti del 69, si nota una qualità musicale straordinaria, come peraltro quasi sempre avveniva in questo periodo estremamente maturo di Miles Davis, pur essendo di transizione, di passaggio. Questa tournée del 69 fotografa in pratica quello che è l'ultimo momento, il momento conclusivo della collaborazione con Miles Davis di Wayne Shorter. E Shorter poi, alla fine di quest'anno, la tournée si svolge, anzi nel 2009, nel 99 Miles Davis fa due tournée, sempre con la stessa formazione, due tournée in Europa. La prima è nel luglio, la seconda è in novembre. E è interessante notare come nel mese di mezzo, insomma, in agosto, registra il disco Beach Brew. Quindi la tournée di luglio in pratica cerca di rodare anche quello che può essere il risultato musicale dei vari brani, e in quella di novembre di verificarli. Poi la collaborazione di Wayne Shorter con Miles Davis va affievolendosi, partecipa solo praticamente in alcuni momenti a registrazioni in disco, ma è già interessato ad altro, è già interessato Shorter a quello che sarà l'esperienza probabilmente più lunga della sua vita, che è la collaborazione con Joe Zawinul e i Weather Report, che nascono alla fine di quell'anno e che andranno avanti fino al 1985. Ascoltiamo dalla prima tournée, dalla prima delle due tournée, quindi una registrazione fatta in luglio, la fine di luglio, a Juan Le Pen, al Festival di Juan Le Pen, e ascoltiamo intanto Miles Runs the Voodoo Down, che è un brano che vede una svolta legata a quelli che sono sapori più vicini al rock che non nella ritmica soprattutto. La formazione è quella che in quell'anno teneva Miles Davis, quindi con Shorter ai sax, soprano e tenore, Chick Corea al piano elettrico, Dave Holland al basso e Jack DeJohnette alla batteria. Ascoltiamo questo Miles Runs the Voodoo Down. Concerti, Davis ha la costruzione di tutto il concerto di un brano legato all'altro, non ci sono mai interruzioni, quasi mai. Difatti poi dal tema di Miles Runs the Voodoo Down, che peraltro è anche impostato in maniera diversa da poi come verrà incisa successivamente, ha un giro di basso iniziale che è molto più... ricordo molto di più lo stile del rock. Questo brano scivola poi in uno successivo, un classico, un brano registrato più volte, che è Milestone, anche questa una composizione di Miles Davis. Thank you. Thank you.